cantore con la piuma sul cappello. È arrivato l'ambasciatore a cavallo d'un cammello, ha portato una letterina dove scritto sta così: se mi piaci Nini ti darò tutto il cuore. È arrivato l'ambasciatore. Sognanti che aspettate il più tenero amore, dischiudete finestre e balconi e intonate le liete canzoni. È arrivata per voi la fortuna, se ascoltate vi dico cos'è: una rosa mettetevi in testa, vestitevi a festa e cantate con me. È arrivato l'ambasciatore con la piuma sul cappello. È arrivato l'ambasciatore a cavallo d'un cammello, ha portato una letterina dove scritto sta così: se mi piaci Nini ti darò tutto il cuore. È arrivato l'ambasciatore. Da un paese lontano, lontano l'ha mandato un ignoto pascià, l'ha mandato per scegliere quella che sarà la più buona e più bella. La più bella la deve portare nel castello laggiù d'oltre mar. Non importa se bionda o se bruna, quel re della luna la vuole sposare. È arrivato l'ambasciatore con la piuma sul cappello. È arrivato l'ambasciatore a cavallo d'un cammello, ha portato una letterina dove scritto sta così: se mi piace Nini ti darò tutto il cuore. È arrivato l'ambasciatore.